giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Si continua a lavorare per superare l'emergenza causata dal maltempo dei giorni scorsi. Vigili del fuoco e protezione civile ancora in prima linea. Il settore dell'edilizia di fronte all'emergenza dei restauri delle case danneggiate dai fortunali e mentre premono le scadenze per rispettare i termini dei lavori del super bonus. Fincantieri chiude il primo semestre con risultati pari a 3.669 milioni, con un incremento del 4,5% rispetto allo stesso periodo del 2022. Falso trading online tra Italia e Albania, la procura di Pordenone ha emesso 14 misure cautelari e 61 denunce. In un dossier inviato al Ministero degli Enti Regionali le osservazioni e critiche delle associazioni ambientaliste dopo la tappa del Giro d'Italia su Lussari. Manifestazione di protesta questa mattina a Trieste organizzata dall'associazione Esodati del Superbonus per protestare contro i cambi di normative che stanno fermando i lavori. In 90 tappe a piedi da Trieste ad Ancona, occasione festeggiare il 90° compleanno. Dallo scorso 1 luglio a oggi sono stati quasi 5.000 i visitatori al castello di Gorizia, un progetto del comune per integrarlo nei percorsi culturali della città. Alle 12.31 un cordiale saluto da Maria Spezia e Armando Mucchino a voi con le notizie della TGR del Friuli Venezia Giulia. I vigili del fuoco di Udine, Pordenone e Gorizia continuano a lavorare in modo incessante per cercare di smaltire le centinaia e centinaia di interventi richiesti a causa del maltempo che ha flagellato la regione. Un'impresa titanica perché ancora oggi emergono problematiche che riescono ad essere raccolte solo ora, come la segnalazione del decesso di 50 pecore avvenuta a Sappada a causa un fulmine. Mortegliano prova a rialzarsi ma il lavoro è ancora lungo. Sono 300 gli interventi in coda per i vigili del fuoco solo nel comune. Devono ancora arrivare teli per tutti, per coprire i tetti. La protezione civile li ha ordinati e li distribuirà a chi ne ha fatto richiesta. Il centro è sempre più in ordine. I rifiuti, soprattutto coppi caduti dai tetti, sono stati ammucchiati sui marciapiedi. Domani mattina ci sarà una pulizia straordinaria con decine di volontari. Gravi i danni alle attività economiche, in particolare alle stalle. I tetti in Eternit si sono sbriciolati. Ospiti di un noto albergo-ristorante di Mortegliano, che lì alloggiavano, hanno perso 7 auto perché la tettoia non ha retto alla grandine. La situazione più drammatica riguarda la famiglia Cucali. Luan, albanese da 35 anni in Friuli, ha perso la casa acquistata con i risparmi di una vita. Il prefabbricato cade a pezzi e dovrà essere buttato giù. Insieme a lui vivevano nella casa la moglie Durata e il figlio Luca, mentre il duomo, con il suo celebre campanile, è stato transennato. Dentro si mettono in sicurezza l'altare e soprattutto la preziosa pala del Martini. Viene giù tanta acqua e anche pezzi di intonaco. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Passiamo dunque al meteo. Il cielo è sereno, poco nuvoloso su pianure e costa, variabile sui monti. Queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 23 gradi. Il mare è quasi calmo con temperatura di 25 gradi. A Gorizia, Udine e Pordenone 23. In Aramontana, Tolmezzo 19, Tarvisio 18 gradi, Forni di Sopra 15, Piancavallo 14 gradi e mezzo e a Sappada 14. In quota sul Monte Zoncolan 9 gradi e sul Monte Lussare 10, sulla costa Legnano e Grado 22 gradi e mezzo, la temperatura del mare in entrambe le località è di 25 gradi. Le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia, oggi pomeriggio, tempo stabile con cielo in genere poco nuvoloso, sarà possibile qualche maggiore annuvolamento sui monti, venti a regime di brezza. Domani cielo in genere poco nuvoloso con venti di brezza, dal pomeriggio possibili maggiori annuvolamenti sui monti e qualche isolato rovescio anche temporalesco verso il Cadore. Il mondo dell'edilizia alle strette per la nuova emergenza causata dai necessari lavori di ripristino delle case danneggiate dal maltempo. Intanto l'urgenza di terminare i lavori legati al superbonus, per cui si chiedono proroghe. Ieri ho ricevuto 10 chiamate, ma non ho gente, non posso fermare i cantieri, ci dice al telefono un costruttore. A Galleriano incontriamo un residente che ha dimestichezza nel settore e si sta riparando il tetto da solo dopo aver affittato un'autoscala. Non abbiamo trovato nessuno disponibile a venire in tempi rapidi, ci dice la moglie che lo osserva dalla strada. Non potevamo aspettare però, ci piove in casa. A poca distanza altre due persone fanno da sé ma ci chiedono di non essere ripresi per assenza di dispositivi di sicurezza. Dopo la tempesta aumentano così anche i rischi di infortuni. Le necessità della ricostruzione arrivano in un periodo intensissimo per tutto il comparto delle costruzioni, ci dice Alessio Parisi, responsabile commerciale di ERA Servizi per Bonus e Superbonus. Per loro più di 200 cantieri attivi nel Superbonus in regione. Bisogna fare anche una riflessione, aggiunge, se i materiali di 30 anni fa sono ancora idonei a questo tipo di eventi atmosferici. Gli fa eco Emanuela Gorgone, presidente provinciale di ANACI, l'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali Immobiliari. Quello che sta succedendo dovrebbe farci riflettere sul tipo di riqualificazione energetica che vogliamo, fatta di cappotti e pannelli fotovoltaici. L'ANCE, Associazione Nazionale Costruttori, chiede al governo una proroga di almeno 6 mesi e decise in fretta del superbonus. I lavori sui condomini, quelli che hanno più bisogno di efficientamento, andrebbero finiti entro il 31 dicembre. Dopo quella data si passa dal 110 al 70%. Come indica Piero Petrucco, vicepresidente nazionale di ANCE, riscuotere poi i soldi da un intero condominio è virtualmente impossibile, quindi il problema della scadenza è quanto mai importante per il comparto. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Una notizia di economia. Fincantieri chiude il primo semestre con risultati in linea con le previsioni del 2023. Lo rende noto il gruppo con un comunicato. Nello stesso periodo Fincantieri registra ricavi pari a 3.669 milioni, con un incremento del 4,5% rispetto allo stesso periodo del 2022, quando si erano fermati a 3.510. In crescita anche il risultato di periodo, che è pari a 3 milioni di euro, mentre nel primo semestre del 2022 era negativo per 94 milioni. Il risultato del periodo è negativo per 22 milioni invece rispetto ai 234 milioni dei primi 6 mesi del 2022, dopo aver scontato oneri estranei alla gestione ordinaria e non ricorrenti pari a 33 milioni. La posizione finanziaria netta a debito per 2.813 milioni di euro contro i 2.531 al 31 marzo del 2022 è quindi coerente con i volumi di produzione sviluppati dal gruppo nel corso del semestre e con il piano delle consegne che prevede 4 unità cruise nella seconda metà dell'anno, si legge sempre nella nota Fincantieri. Grazie alla collaborazione tra Polizia Italiana e Polizia Albanese, la Procura di Pordenone ha disposto 14 misure cautelari per una frode di oltre 5 milioni di euro legata a un falso trading online. 14 misure cautelari e 61 denunce, 42.000 intercettazioni, un centinaio di truffati e una frode da oltre 5 milioni di euro. Sono i numeri di una vasta operazione della Polizia di Stato coordinata dalla Procura di Pordenone in sinergia con la Polizia albanese e coordinata dalla Procura Speciale contro la corruzione e il crimine organizzato di Tirana. Le indagini sono partite proprio da una denuncia pervenuta alla Polizia Postale di Pordenone. Il questore Luca Carocci. Qual era il modus operandi? Era l'invito a degli investimenti straordinariamente efficaci, straordinariamente produttivi, che in un primo tempo risultavano essere tali, ovviamente con una falsa schermata di risultati di profitto, e poi dopo questo catturavano la fiducia dei risparmiatori che arrivavano persino a consegnare a questa società i loro codici personali per l'home banking e quindi consentendo agli stessi di poter operare da remoto direttamente sui loro conti correnti. Alcuni consigli per i risparmiatori, perché qui se ci dice anche due parole chi sono i truffati, quanto possono aver perso e come difendersi. Certo, ci sono persone che hanno perso anche centinaia di migliaia di euro, poi si tratta di pensionati, liberi professionisti, impiegati, cioè abbiamo una varietà di persone che purtroppo sono cadute nel tranello. I consigli sono quelli di consultare i siti della Consob e della Banca d'Italia per accertare che si ha a che fare con degli intermediari che siano autorizzati, diffidare sempre da chi promette dei profitti fuori mercato, cioè dei profitti straordinariamente alti, perché ovviamente si cela la truffa, e ancora una volta non diamo mai a degli estranei i nostri codici personali e bancari, perché ovviamente gli consentiamo di poter inserirsi in maniera estremamente facile nei nostri conti e quindi operare come meglio credono. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Trieste, davanti alla sede della Giunta regionale, si è tenuta stamane la manifestazione di protesta organizzata dall'Associazione Esodati del Superbonus per sottolineare le difficoltà dovute alle variazioni normative al blocco della cessione dei crediti edilizi per lavori di efficientamento energetico e ristrutturazione previsti per legge. La situazione ora registra cantieri fermi, case sventrate, crediti inutilizzabili giacenti nei cassetti fiscali, a fronte di spese già versate di decine di migliaia di euro per la documentazione necessaria necessarie dell'inizio lavori, spesso mai avviati. Si sono ritrovati con i cantieri fermi, i lavori lasciati a metà, alcuni anche senza soldi e senza la possibilità di accedere al credito perché le banche non lo accettano più. Sono gli esodati del Superbonus, questo è il nome dell'associazione dei cittadini che ha organizzato un presidio a Trieste davanti al Consiglio regionale per presentare alla politica la loro situazione e fare una richiesta, riaprire la cessione del credito per chi ha fatto le cose in regola e si trova in difficoltà. I rinnovi e le proroghe fatte dal governo nel tempo hanno creato solo l'illusione di poter accedere al credito, spiegano gli organizzatori. Con tutte le variazioni sopraggiunte da novembre 2021, il meccanismo di cessione del bonus 110 è diventato, spiegano, sempre più difficile. Il loro appello è rivolto a tutti gli organi istituzionali perché si attivino a trovare una soluzione, anche coinvolgendo le partecipate locali o grosse aziende, perché acquisiscano i crediti e librino capienza alle banche. Di fronte al presidio sono diversi i consiglieri che si sono fermati ad ascoltare le ragioni della protesta e alcuni, membri di Civica FVG e di Patto per l'Autonomia, hanno raccolto l'appello garantendo l'apertura dell'iter per un'audizione. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. A Trieste stanno procedendo come da programma i traslochi della scuola Spaccini Sauro, che sarà ristrutturata in autunno, mentre gli alunni della scuola media Corsi si trasferiranno in gennaio. Intanto i genitori stanno ancora aspettando che il comune fornisca loro informazioni su orari e modalità del servizio scuolabus. Questa notte tantissimi genitori hanno mandato un messaggio di posta elettronica al comune. Dall'edificio scolastico di via Madonna del Mare stanno uscendo arredi e scatoloni con il materiale didattico diretti in via dell'Istria, dove i 350 bambini della scuola Spaccini Sauro, di cui 65 della scuola d'infanzia e 45 in prima classe primaria, trascorreranno il prossimo anno scolastico. Tutto sarà pronto secondo il cronoprogramma, il trasloco si concluderà domani, poi le pulizie, l'insediamento del personale e a inizio settembre degli insegnanti. I genitori però sono preoccupati perché non stanno ricevendo alcuna comunicazione da parte del comune sugli orari e le modalità gestionali del servizio scuolabus, che partirà con l'inizio delle lezioni il 13 settembre. Per sollecitare le informazioni già richieste da tempo, dicono i loro rappresentanti, questa notte tantissime mamme e papà hanno inviato al comune una mail, la stessa mail in cui chiedono notizie scritte. Questa mattina la dirigente scolastica ha inviato ai genitori una lettera in cui ha illustrato la situazione dei lavori e del trasloco. Sullo scuolabus ha scritto che non appena riceverà dal comune comunicazioni sarà sua cura informarli. Intanto l'assessore all'educazione Maurizio De Blasio, che si è insediato qualche settimana fa, ha fatto sapere che sta lavorando per organizzare prima possibile un trasporto impegnativo dal punto di vista logistico e che richiede un investimento importante anche per garantire la sicurezza dei bambini e conta di fornire indicazioni precise alla dirigente scolastica entro la prossima settimana. Intanto l'altra scuola, che deve essere sottoposta ad un intervento di ristrutturazione legato all'adeguamento antisismico e antincendio, la scuola secondaria di primo grado Corsi, dovrà aspettare gennaio per cominciare il trasloco al Molo Quarto, dove il comune non è ancora riuscito ad organizzare gli spazi in tempo. Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia. In caso di arresto cardiaco, intervenire tempestivamente utilizzando un defibrillatore aumenta le possibilità di vita dal 2-10% fino addirittura all'80%, un dato massimo che dipende proprio dalla diffusione dei defibrillatori a livello territoriale. È per questo che il Comune di Udine ha deciso di avallare un progetto presentato dalla Croce Rossa Italiana, una scelta fatta a febbraio dall'allora assessore alla salute Giovanni Barailari e confermata dall'attuale assessore Stefano Gasparin. Grazie a questo progetto e al finanziamento di 20.000 euro verranno acquistati 17 nuovi defibrillatori, mentre la Croce Rossa Italiana si incarica di formare sull'uso dello strumento 96 persone. Dal 1 luglio, data della riapertura del Castello di Gorizia, fino a oggi sono stati quasi 5.000 i visitatori registrati tra le sale della struttura. L'amministrazione intanto sta mettendo a punto il progetto di biglietto unico di ingresso a raggruppamento delle principali strutture museali cittadine con tariffe già approvate dalla Giunta Comunale. D'agosto e fino al 15 ottobre l'ingresso intero al Maniero costerà 8 euro, mentre quello ridotto 4 euro, così da sostenere il rinnovo degli strumenti tecnologici multimediali dell'allestimento, tra cui le soluzioni di realtà aumentata e immersiva. Previsto poi l'accesso gratuito nella prima domenica del mese e il biglietto ridotto per visitatori tra i 6 e i 24 anni, pari a 16 euro il prezzo della convenzione forfettaria Go Musei a tariffa intera. Grazie al lavoro del ministro Calderoli, scrive in una nota il coordinatore della Lega in Friuli Venezia Giulia, il senatore Marco Dreosto, per le aree montane del Friuli Venezia Giulia sono a disposizione 5,49 milioni di euro, risorse disponibili per regioni ed enti locali, comprese nel Fondo per lo sviluppo della montagna italiana FOSMIT, che per il 2023 sono addirittura raddoppiate, passando da 109 a 215. Tra le innovazioni contenute in questo decreto vi sono nuovi criteri di assegnazione delle risorse che valorizzano la vera montagna, la garanzia di un sostegno differenziato per fornire le maggiori tutele possibili ai cittadini che risiedono in aree a difficoltà e viene stabilita poi la priorità per investimenti contro il dissesto idrogeologico. All'Università di Udine sono stati proclamati i primi 3 laureati del corso triennale in ingegneria industriale per la sostenibilità ambientale. A discutere con successo la tesi nell'auditorium della nuova biblioteca del Polo Scientifico dei Rizzi sono stati Luca Cudia, Nicola D'Andrea e Lorenzo Pitton. Cudia, di San Vito al Tagliamento, ha discusso la tesi Torrefazione di caffè, studio di impatto ambientale, ha sviluppato il suo lavoro nel corso di un periodo Erasmus all'Università della Cantabria. D'Andrea, di Rigolato, ha discusso l'elaborato impianti di abbattimento emissioni per centrali di produzione di energia da biomasse legnose. Infine Pitton, di Palazzolo dello Stella, ha presentato la tesi Cattura della CO2 in post-combustione mediante solidi assorbenti funzionalizzati con azoto. Ben 2.500 km a piedi in 90 tappe per festeggiare i 90 anni di età. È partito questa mattina da Piazza Unità da Trieste Alessandro Berliere, ex sportivo agonistico, e arriverà il 24 ottobre, il giorno del suo compleanno, ad Ancona. L'atleta novantenne ha impiegato molto a programmare il viaggio perché ha voluto toccare comuni piccoli ai quali dare anche visibilità grazie all'impresa. Berliere non teme nemmeno l'afa e il soleone perché, dice, affronterò le prime tappe che forse coincideranno con i giorni caldi quando sono ancora fresco. Il segreto per restare così in forma è fare una bella vita. Sono alpino, paracadutista, subacqueo, ho fatto tanto sport, sono stato anche in nazionale e mi alleno bene. La cosa principale però è, dice, scherzando, essere felici. Io sono vedovo da 34 anni e cambio spesso morosa. Sono trascorsi 2 mesi dall'arrivo della tappa del Giro d'Italia sul Lussari e ora il coordinamento regionale delle associazioni di FIAB FVG e di Italia Nostra, Lega Ambiente FVG e WWF FVG ha trasmesso una lettera al Ministero dei Beni Culturali e alle istituzioni regionali con allegato un monitoraggio effettuato lungo la strada del Lussari prima e dopo la tappa. Nella lettera le associazioni evidenziano come il passaggio del Borgo Lussari non sia più quello iconico di una volta, ma caratterizzato dall'impronta pervasiva del cemento che ha trasformato e sottratto bellezza al luogo, dai piazzali in cemento prossimi all'arrivo della cabinovia al nastro di calcestruzzo e opere accessorie che delimitano in particolare il borgo sul versante nord-orientale. L'assenza di confronto con le associazioni ambientaliste, si legge ancora nella lettera, ha impedito possibili mediazioni, ad esempio lo spostamento dell'arrivo di tappa nella sella sottostante, tralasciando così gli interventi a ridosso del borgo. Le associazioni chiedono alle istituzioni di intervenire ora per accertare quanto eseguito in difformità con il progetto e con le previsioni del piano paesaggistico regionale, per restituire al paesaggio sommitale la bellezza che il calcestruzzo ha sottratto. Dopo la rimozione del cemento, l'area potrebbe essere completamente rinverdita, pur realizzando un percorso di collegamento di congrue dimensioni, pavimentato con quei materiali drenanti indicati dalla sovrintendenza che meglio si integrano con l'architettura del borgo. Passiamo allo sport, iniziando dal nuoto ai campionati mondiali di nuoto di Fukuoka in Giappone, semaforo rosso nei 200 dorso per Matteo Restivo, 17esimo e primo degli esclusi, e per Lorenzo Mora, 23esimo. Il 29enne friulano e primatista italiano è arrivato in 1 minuto 58 secondi e 57 centesimi, quindi 11 centesimi peggio del nipponico Hidekazu Takehara. Medaglia d'oro per l'atleta della nazionale junior italiana di ginnastica artistica al Festival Olimpico Estivo della Gioventù Europea, EIOF, in corso a Maribor. Un risultato ottenuto anche grazie a Benedetta Gava dell'Artistica 81 di Trieste, che si è qualificata anche per la finale individuale al volteggio e alle parallele. A seguire il gruppo azzurro, il tecnico triestino Diego Pecar. Sui sentieri di Castellón di Paluzza, ieri sera è andata in scena la 23esima edizione del Memorial Erwin Mayer nel nuovo contest di Vertical Sprint. Il percorso in uno scenario che da Castellón di Paluzza si inerpicava fino al Colle di San Daniele per poi proseguire fino alla Maine des Milies. Gara verticale da fare tutta in apnea nei 1200 metri di sviluppo con 250 metri di dislivello. Nel settore assoluto tra le donne si è imposta Maria Dimitra Teocaris davanti a Sara Knight e Alice Cescutti. Tra gli uomini ha vinto l'atleta di casa Michael Galassi davanti al favorito della vigilia Tiziano Moia, mentre a chiudere il podio è stato Rock Bratina. 130 gli atleti in gara e di questi ben 50 del settore giovanile che andava dai 6 ai 17 anni. Controtenore Filippo Minecce, la soprana Eleonora Blocci saranno diretti da Giulio Prandi con orchestra e coro della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste per l'esecuzione dei brani del Carmina Burana di Karl Orff, di cui in sottofondo avete ascoltato un'esecuzione. I componimenti poetici medievali ritrovati all'inizio dell'Ottocento nella Burra di San Benedetto in Alta Baviera in latino, alto tedesco e provenzale antico saranno esaltati dal ricorso a molti strumenti raramente usati, come la raganella, i cimbali, i sonaglieri, le campane tubolari, le nacchere e il tamburo basco. Il coro del Teatro Verdi sarà affiancato dal coro del Friuli Venezia Giulia, guidato da Anna Molaro, per giungere al numero di 85 voci a Trieste, al Castello di San Giusto, alle 21. Sarà una prima assoluta quella di Marlene, spettacolo diretto da Haris Pasovic, oggi nel cartellone del Festival di Teatro, Musica, Danza, Marionette, Cividalese, Mittelfest, in programma al Teatro Ristoria alle 21 sul palco, in linea con il tema inevitabile di questa edizione. La storia della diva Marlene Dietrich, interpretata dalla serba Mirjana Karanovic, che si sottrae al suo ruolo di icona del cinema del Terzo Reich e durante la Seconda Guerra Mondiale decide di combattere il nazismo accanto agli americani. Ancora in programma oggi l'esecuzione della giovane violinista e compositrice Anei Drago, che proporrà un viaggio musicale e letterario attraverso la costruzione delle nostre solitudini interiori in un concerto dal titolo Minotauri, alla chiesa di Santa Maria dei Battuti alle 17. Infine, musiche di Vivaldi, Bach e Telemann saranno eseguite alla chiesa di San Francesco alle 19. L'ensemble vocale strumentale Andrea Palladio, diretto da Enrico Zonovello, sarà protagonista del concerto in un programma nella Basilica di Santa Eufemia a Grado alle 21, nell'ambito del cartellone organizzato con il coro polifonico di Ruda. L'ensemble proporrà musiche di Monteverdi e Vivaldi nella cornice della rassegna Concerti in Basilica, solitamente ospitata nel sito di Aquileia. Giornata d'esordio per Nano Valbruna, festival di respiro internazionale dedicato all'ambiente e alla tutela degli ecosistemi. In programma incontri con scienziati, imprenditori, docenti, giornalisti e giovani da tutto il mondo che si confronteranno in laboratori, seminari, escursioni e incontri sul tema di questa quarta edizione della manifestazione, che è cibo e agricoltura sostenibile. Oggi in calendario gli appuntamenti del ciclo Nano Picciule, incentrati sulla sperimentazione scientifica per i più piccoli con l'analisi degli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU per la promozione di un'agricoltura sostenibile. Appuntamento a Malborghetto Valbruna, all'Hotel Sizera, dalle 14. Altro evento in cartellone, l'incontro con il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico del Consorzio Biodistretto delle Alte Valli, intitolato Rilanciare l'economia della montagna, alle 18.30. La rassegna di musica e concerti in carni armonie prosegue con il concerto Classicissimo Viennese. In programma l'esecuzione del trio in si bemolle maggiore di 471 di Schubert e il settimino in bi bemolle maggiore opera 20 di Beethoven, nell'interpretazione di Federico Guglielmo al violino, Luca Ranieri alla viola, Maria Cecilia Berioli al violoncello, Pietro Cavallucci al contrabbasso, Claudio Mansutti al clarinetto, Paolo Caligaris al fagotto e Marco Venturi al corno. Cella di Ovaro nella pieve di Santa Maria di Gorto alle 20.30. La città delle donne, le protagoniste e i luoghi simbolo della vita femminile, il titolo dell'appuntamento odierno del ciclo di visite guidate alla scoperta del lato nascosto di Pordenone, in cui lo spazio urbano diventa museo a cielo aperto e permette di scoprire nuovi misteri, curiosità e segreti di un luogo che si pensava di conoscere. Tra le figure del programma di oggi c'è Aloisa Mantica, nobildonna e mecenate, oltre ad Angioletta delle Rive e a sua figlia Giustina, popolane inquisite per stregoneria nel XVII secolo, e a Silvia Zenari, naturalista a cui è dedicato il Museo Civico di Storia Naturale, oltre a Elisabetta Imelio, musicista e bassista dei Prozac Plus, e alla partigiana Ildegonda Milanese. Appuntamento a Pordenone con ritrovo al Ponte di Adamo ed Eva alle 18.15 e invece la rassegna triestina di tour notturni alla scoperta di Cavana, battezzata Cavana Stories, si apre con il primo appuntamento dedicato allo scrittore irlandese James Joyce e alle osterie e i bordelli che lo scrittore frequentava. Sotto la lente personaggi protagonisti delle memorie del luogo, da Zeno Costini alla Muta. Appuntamento a Trieste con ritrovo alla farmacia al Redentore in Piazza Cavana alle 21. Era questa l'ultima notizia del nostro giornale radio, collaborato in redazione Edoardo Veglia, per la parte tecnica Roberto Cavallari e Walter Vidonis. Maria Spezia e Armando Mucchino vi ringraziano per l'ascolto, augurandovi una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.